Europa 24. Buongiorno da Gigi Donelli, anche qui ripartiamo dalle banche. Infatti poco fa Gerard Dijsselbloem è intervenuto in commissione a Bruxelles, nell'emiciclo del Parlamento, ha parlato di banche, ha detto il passaggio fondamentale dell'approccio UE nei confronti delle banche dopo la crisi è quello del passaggio dal precedente sistema di bailout a quello attuale di bail-in, dove le banche contribuiscono a salvarsi da sole proprio per spezzare il circolo vizioso con il debito sovrano. Così il presidente dell'Eurogruppo, appunto Dijsselbloem, intervenendo al Parlamento, ha chiesto un approccio omnicomprensivo per completare l'unione bancaria, perché ha detto tutti i fondi, incluso quello sui depositi, devono procedere in parallelo. Poi ha completato: una lezione che dobbiamo imparare è che dobbiamo finire i progetti, non lasciarli a metà, per questo dobbiamo finire la costruzione dell'unione bancaria, il progetto più importante che abbiamo adesso. L'Italia è libera di intervenire su soluzioni alternative, ma non trova l'appoggio, o meglio di proporre soluzioni alternative, ma non trova l'appoggio dell'Unione Europea, e la Polonia si sorprende che l'Italia sollevi questioni legate alle sanzioni. Sono sorpreso che l'Italia stia sollevando la questione delle sanzioni, stia cercando di sbarazzarsene in modo infelice. Così l'attacco del ministro degli esteri polacco, dopo che qualche giorno fa l'Italia aveva di fatto bloccato il rinnovo automatico semestrale delle sanzioni alla Russia. Un dibattito che verrà tenuto nei prossimi giorni e che vede, come era facile attendersi, una ferma opposizione da parte della Polonia e dei paesi baltici. E ancora stamattina è stata presentata a Strasburgo Educa, la campagna per il raddoppio dei fondi destinati all'istruzione dei minori nei paesi in conflitto. Gli eurodeputati del gruppo socialisti e democratici chiedono che entro il 2016 il Parlamento porti l'attuale 2% di quota dei fondi per emergenza umanitaria e istruzione al 4%. Questo garantirebbe un futuro di scolarizzazione per 7 milioni di minori. Ne parla Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo. Educa è il nome della nostra campagna che abbiamo lanciato oggi e che riguarda soprattutto l'investimento che chiediamo di fare all'Europa, ma certamente anche alle Nazioni Unite, perché si passi dall'attuale 2% di risorse destinate all'istruzione per i bambini e per i ragazzi in condizioni di emergenza nei campi profughi, di tutto il totale degli aiuti umanitari, si passi almeno al 4% entro il 2018. Un grande passo avanti l'abbiamo fatto con la risoluzione approvata in Parlamento nel mese scorso, in cui siamo riusciti comunque a ottenere già una positiva accoglienza da parte della Commissione di questa nostra richiesta, e quindi siamo veramente fiduciosi che forse nel 2018 arriveremo anche al 5%. Questa cifra può non dire molto in astratto, ma se si pensa che solo con il 4% possiamo coprire 7 milioni di bambini in condizioni di emergenza per garantire l'accesso all'istruzione, capiamo l'effetto. E vorrei dire che l'istruzione non è una seconda fase dell'accoglienza, è un fatto fondamentale, uno strumento potente di rassicurazione psicologica dei bambini, di inserimento, di riduzione dei possibili anche conflitti culturali, di segnale che si dà anche alla loro famiglia di un futuro di integrazione. Infine una nota che arriva da Bruxelles, ma riguarda il tema del terrorismo. Il livello di minaccia terroristica a Bruxelles sarà mantenuto all'attuale 3 su 4 fino alla fine dell'anno, ma durante il periodo delle feste natalizie sarà valutato costantemente ogni giorno. Questa è la comunicazione questa mattina del ministro dell'interno belga dopo una riunione del Consiglio nazionale di sicurezza. Bene, è tutto per questo appuntamento. Naturalmente Europa 24 torna domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.